Italia in controluce. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e qui dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Oggi per i nostri radioascoltatori lanciamo il tema di questa puntata: i grillini, il Movimento 5 Stelle è sotto attacco? Questo ci dovete rispondere. Perché? Perché da una parte c'è stato il caso della legge anti-grillo, ovvero anti-movimento, una proposta di legge presentata dal Partito Democratico che consentirebbe la candidatura o solo di partiti, personalità giuridiche e con uno statuto, quindi sembra fatta proprio apposta contro il Movimento 5 Stelle. Ovviamente si tratta di una proposta di legge, quindi già il PDL ha detto la Gelmini è stato uno sbaglio presentarla, quindi non è detto che passi assolutamente. Poi c'è un attacco del Vaticano, sembra che dice basta populismi, i vescovi italiani della CEI sostengono le larghe intese, eppure qui sembra che Grillo sia un pochino sotto attacco. Infine c'è l'icona del Movimento 5 Stelle fino a ieri, Milena Gabanelli, che vuole sapere dove vanno a finire i soldi della pubblicità che si ha quando si clicca sul blog di Beppe Grillo. Allora, intanto, per capire che cosa sta succedendo in questo momento, noi ci colleghiamo con il Senato, dove c'è per noi Andrea Viali. Andrea. Sì, Elisabetta, saranno anche sotto attacco, ma a Palazzo Madama qui i grillini si preparano anche a dare battaglia sull'ineleggibilità di Berlusconi. La questione sarà posta fra poco nella riunione della Giunta per le elezioni e le immunità, chiamata oggi ad eleggere il suo presidente che, per prassi, lo ricordiamo, spetta all'opposizione. Il favorito è il leghista Volpi, sostenuto anche dal PDL e dal PD, ma i 5 Stelle sperano che alcuni dei rappresentanti democratici votino invece per il loro candidato o per quello di Sell. Naturalmente, se così fosse, il voto sarebbe un segnale politico chiaro anche rispetto alla questione dell'ineleggibilità del Cavaliere, che i 5 Stelle puntano comunque a far mettere subito fra i temi all'ordine del giorno della Giunta, rifacendosi in particolare ad una legge del 1957 che la prevede l'ineleggibilità per i soggetti che sono legati a imprese titolari di concessioni pubbliche. Il PDL, c'è da dire che però, ha già mandato un messaggio netto al PD, con Palma ha avvertito che se il segnale politico che viene dalla Giunta dovesse propendere a favore dell'ineleggibilità di Berlusconi, il governo sarebbe finito. Quindi, insomma, aspettiamo di vedere come andranno le cose in Giunta, Elisabetta. Allora, questa era Andrea Viali, lo ringraziamo. Ricordiamo il numero dei nostri SMS. I grillini sono sotto attacco, secondo voi? 349-238-6666. Allora, 349-238-6666. Intanto qualcuno già ha scritto: siete uno scandalo, casta, casta, casta, lo tsunami travolgerà anche voi. La Gabanelli non ha la verità rivelata, ne ha sparate grosse anche lei. Il problema di 30 anni di rapina del popolo italiano, il Movimento 5 Stelle, i suoi guadagni del blog, tutto questo paese è in sfacelo. Ovviamente i nostri radioascoltatori non sono così attenti nel linguaggio certe volte. Chiediamo a Papa Francesco di esorcizzare il governo, baci Cinzia, detta Paperina. Ricordo i grillini per i tanti e per le lunghe discussioni sui rimborsi spesi. Cosa dovrebbe seppellire la casta? Una risata la seppellirà, dice Maria Rosaria. Movimento 5 Stelle, tanti nemici, tanta gloria. Ricordando sempre il numero degli SMS, 349-238-6666, noi andiamo a sentire proprio che cosa ci ha risposto un deputato grillino, Matteo Dall'Osso. Sì, diciamo che tutte queste cose le sapevamo già, cioè che fossimo soli, ed è per questo che anche Beppe diceva sempre siamo in guerra, ha scritto anche un libro che te lo consiglio. Ve l'aspettavate questo attacco della Gabanelli sul blog di Beppe Grillo? Ma dove vanno a finire questi soldi? Ma guarda, la Gabanelli fa semplicemente il suo lavoro, quindi non ci vedo nulla di male, anzi mi stupirei se non lo facesse. Detto questo, invece, il problema dei soldi del blog non è un problema. E vogliono farlo passare tale, perché il blog di Beppe Grillo è un blog privato e l'associazione Movimento 5 Stelle reperisce i fondi dalla gente che glielo vuol donare. Ma che difficoltà c'è a costituirvi come partito, a avere una personalità giuridica, ad avere uno statuto? Ma noi siamo altro, noi veramente, cioè guarda, col mio sorriso splendido ti dico, noi con quella cosa lì non vogliamo centrare nulla, cioè noi quando c'è il question time siamo in aula, quando c'è una discussione parlamentare stiamo in aula fino alla fine, gli altri non c'è nessuno, né di destra, solo chi è interessato. Penso infatti che sia una strategia politica la loro, quella di snervarci e di farci arrivare i cotti alla fine. Ma allora che cosa farete? Cosa faremo? Faremo battaglia come sempre abbiamo fatto. È sempre più dura? È sempre durissima e soprattutto siamo soli. Ma vinceremo. E com'è il titolo della mia storia? Vinciamo noi. Sì, però vinceremo lo diceva anche un'altra persona. No, quello diceva vincere e poi è. E abbiamo sentito Matteo Dall'Osso, ricordiamo la sua storia, è di una persona che ha combattuto contro la sclerosi multipla, una persona molto coraggiosa, poi l'abbiamo un po' preso in giro su vincere e vinceremo, che sappiamo chi lo diceva, ma intanto abbiamo un sacco di sms, 20 anni di politica d'accatto hanno prodotto qualcosa di non possibile da dire in radio, e cioè il Movimento 5 Stelle, Camillo, quello che sta succedendo è scandaloso, fanno una legge ad movimentum per tagliare fuori l'unica forza che cerca di spazzare via il marciume che vediamo da 20 anni, la paura fa 90 ma noi siamo 160, Antonio, beh questo è molto carino, ciao, noi ascoltatori dobbiamo stare attenti al linguaggio, cara Fiorito, i soldi della pubblicità sul blog di Grillo sono comunque introiti derivanti da privati, imprese e non pubblici, i grillini saranno sempre più forti perché ci siamo noi milioni di sostenitori, Fabio, e a questo proposito Fabio ti dico quella che è la risposta di Beppe Grillo, il blog è nato nel 2005, a differenza della maggior parte dei prodotti editoriali italiani televisivi o cartacei non ha mai utilizzato fondi pubblici, negli ultimi anni la sua gestione è stata sempre in perdita, dal 2012 i costi erano diventati insostenibili e fu per questo inserita la pubblicità, e dice che la Casaleggio Associati ha chiuso in passivo e che praticamente quindi questo blog non fa guadagnare Beppe Grillo o Gian Roberto Casaleggio, come praticamente sostengono poi i nemici di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle. E ci sono altri sms, sì, sono sotto attacco, non li avevo votati, ma ormai sono gli unici che meritano un voto non marcio, quindi una persona che si è invece infervorato e che voterà 5 Stelle. Movimento 5 Stelle non antipolitica ma antipolitici, dice Massimo. Poi pochi minuti fa avete mandato in onda un vecchio pezzo del Sole, eppure siete giornalisti, non vi dovete occupare di broccoli e ortaggi, dice Ivan D'Alecco. Non ci libereremo facilmente del duopolio Grillo Casaleggio, di peggio non esiste, dice Giancarlo. Ecco, vedete quindi che come al solito il Movimento 5 Stelle spacca un po' l'Italia in due. Viva i grilli, non siete soli, nessun attacco, lotta politica e democrazia, dice Olga. E allora dobbiamo dire che moltissimi sono gli sms, abbiamo sentito, c'è una spiegazione di Beppe Grillo sul blog che dice è in perdita e i bilanci della società sono disponibili alla Camera di Commercio di Milano. Un saluto da Elisabetta Fiorito.